Le telestritte sono sbarcate sull'International Herald Tribune, ve lo raccontavamo ieri con Enrico Franceschini, quindi anche questo autorevole quotidiano si è interessato ad un fenomeno che parte in Italia da quartieri piccoli, anche da piccoli centri, e in particolare il Tribune ha raccontato la storia di Disco Volante, cioè una emittente di Senigallia in provincia di Ancona, come la prima telestritte italiana, che è Orfeo TV ed è di Bologna, e tutte le altre decine poi di TV che si sono riunite nel network telestreet, anche Disco Volante ha cominciato a trasmettere senza essere concessionario di una frequenza, e per questo il Ministero delle Comunicazioni ha emesso un'ordinanza di chiusura nel 2003, però a maggio, nel 2005, il maggio scorso, il Tribunale di Ancona ha detto che i ragazzi di Senigallia potevano riprendere le trasmissioni. Ne parliamo questa mattina con Francesco Fasiolo, che è qua in studio con noi, con Giancarlo Vitali, che è il fondatore di Orfeo TV ed è già al telefono, buongiorno. Buongiorno. E poi con Enea Discepoli, che è in linea, fondatore di Disco Volante, salve. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Beh, io comincerei facendo un piccolo passo indietro, chiedendo a Giancarlo Vitali com'è lo stato di salute di Orfeo TV, che ricordiamo è la prima telestritte italiana, e magari per chi non avesse ben chiaro il fenomeno spieghiamo che le telestritte sono, diciamo così, televisioni di strada o di quartiere gestite da volontari che trasmettono appunto senza la concessione del Ministero. La loro portata è limitata al gruppo di strade, all'area che riescono a raggiungere, inserendosi nei cosiddetti coni d'ombra, che sono i vuoti di segnale, quelli che non sono occupati da nessuna emittente, che impediscono quindi la ricezione delle trasmissioni di una concessionaria, magari di una certa frequenza. La legge Mammì non ne prevedeva l'esistenza, abbiamo visto cosa è successo a Disco Volante di Senigallia, e poi Enea Discepoli magari ci spiegherà anche perché il Tribunale di Ancona ha invece permesso di riprendere le trasmissioni. Per creare una telestreet servono relativamente pochi soldi, c'è un investimento iniziale di un migliaio di euro, si può attivare un'antenna e poi basta un televisore, un paio di videoregistratori, qualche telecamera digitale e un mixer. E al tempo, quando nacque Orfeo TV nel 2002, in molti paragonavano questo fenomeno a quello delle radio libere degli anni 70. Tra l'altro nelle prime parole di Orfeo TV si faceva proprio questo riferimento, si diceva, era il 21 giugno 2002, è una situazione simile a quella degli anni 70, quando radio e TV indipendenti cominciarono a trasmettere via etere nonostante il monopolio dello Stato lo vietasse. Quella battaglia, come sappiamo, fu vinta. Orfeo TV diceva: se non saremo soli la vinceremo anche noi, l'aria diventerà più respirabile per tutti. Chiedo a Giancarlo Vitali com'è l'aria oggi. Che emozione quelle parole, sai, le ho scritte io, mi fanno una certa impressione. Ma è buona la salute di Orfeo TV, è buona, siamo vivi e vegeti, trasmettiamo naturalmente quando possiamo, perché una cosa l'abbiamo scoperta: fare televisione è straordinariamente faticoso, ci vuole moltissimo tempo, molta energia e anche, devo dire, qualche soldo. Siccome noi di soldi non ne abbiamo, facciamo quello che possiamo. Del resto, Orfeo TV non è nata per fare concorrenza a Poli o a televisioni locali, è nata per battere un pugno sul tavolo e dire no al monopolio, no a questa situazione italiana assolutamente anomala, e sia la libertà di espressione. Quante telestreet ci sono oggi in Italia? Ma guarda, è difficile dirlo, perché ci hanno scritto in tantissimi, sono messi in contatto con noi circa 250 gruppi da quando siamo nati noi ad oggi. Ma televisioni che funzionino anche saltuariamente, anche una volta alla settimana, insomma, abbiamo notizie di una sessantina di televisioni di strada, molte poi non si mostrano per timore della magistratura. Ecco, e veniamo allora al caso di Disco Volante, di cui si è occupato appunto l'International Herald Tribune. Diciamo che la TV di strada, Disco Volante di Senigallia, nasce all'interno di Studio Zelig, che è un laboratorio artistico autogestito da un gruppo di persone disabili, quindi gran parte dei servizi che vengono prodotti riguardano il tema delle infrastrutture della disabilità. E vorrei chiedere ad Enea Discepoli di raccontarci com'è andata, perché voi siete stati la prima telestreet ad essere chiusa dal Ministero delle Comunicazioni. Al tempo il ministro era Gasparri, venne sigillato il vostro trasmettitore, vi si contestava il reato di esercizio di trasmissione abusiva in assenza di autorizzazione o concessione. Quindi nel 2003 voi avete chiuso, no? Sì, per forza. Ma abbiamo continuato a lavorare perché eravamo e siamo convinti che oltre alle barriere architettoniche vadano abbattute le barriere della comunicazione, e la TV, essendo un mezzo di comunicazione unidirezionale, crea queste barriere all'interno degli spazi sociali. Poi Disco Volante era ed è stata concepita come un sistema per collegarsi alla comunità, per soddisfare l'esigenza di comunicare utilizzando il linguaggio della televisione da parte di tutti, anche di chi non è bello, non sa parlare bene o di chi vive nell'ombra. Era questo il nostro scopo. Poi il rione Porto qui di Senigallia è un vecchio rione abitato per metà da anziani e dall'altra metà da extracomunitari. È nato questo legame con il quartiere, che poi è uno degli obiettivi delle telestritte. È la nostra forza, è la nostra ancora di salvezza è stata. Solo avendo un contatto con la nostra realtà di Rione abbiamo potuto difenderci, abbiamo potuto sollevare l'interesse da parte dell'amministrazione comunale, da parte di parlamentari, e solo per questo, non tanto perché potevamo trasmettere, in quanto la presa diretta con il popolo, le citoyen, è il nostro motore, insomma. Ecco, diciamo anche che quindi nel maggio 2005 c'è stata il Tribunale di Ancona ha deciso il proscioglimento in istruttoria della vostra TV di strada, non c'è stato il rinvio a giudizio. Le motivazioni della sentenza le leggo: Disco Volante, emittente televisiva a cortissimo raggio, si deve ritenere esente da autorizzazione o concessione in quanto trasmette sfruttando un cono d'ombra nello spettro delle frequenze, senza creare alcuna interferenza ad altre emittenti o segnali. Sì. Quindi praticamente il Tribunale ha detto: potete trasmettere perché non danneggiate nessuno, non oscurate nessuno, questo è il senso. Sì, questa vittoria la dobbiamo anche alla mobilitazione del circuito Telestreet, alla perizia tecnica dell'ingegner Carlo Gubitosa che ha lavorato per noi, dalla mobilitazione di intellettuali, ricordo un articolo di Aldo Grasso, di noti il servizio di De Aglio l'anno scorso sull'Elmo di Scipio, no? Tutta questa cosa perché nell'anno del disabile una televisione composta prevalentemente da disabili veniva censurata, e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come si dice. Questo però crea anche un precedente importante, è vero Giancarlo Vitali? Cioè un tribunale ha detto che le telestritte non hanno bisogno di autorizzazione. Crea un precedente importante a cui noi tenevamo anche, perché devo confessarti che a Bologna aspettavamo con impazienza i carabinieri per poter proprio giungere a un'archiviazione, o addirittura pensavamo di giungere alla Corte Costituzionale, come dicevano i nostri avvocati. Devo dire però al tempo stesso che in questi giorni è stata chiusa un'altra televisione, una piccolissima televisione in provincia di Taranto, Dream TV era il suo nome, e questo ci sorprende assai, anche perché il 2 ottobre del 2003 la Camera dei Deputati ha votato a maggioranza un ordine del giorno che, come sappiamo, non è una legge, è tuttavia un impegno che il governo prende, in cui si diceva che le TV di strada non sarebbero state più perseguite fino a un'eventuale regolamentazione di questa esperienza. Ora, questo governo, se non rispetta ormai più nulla, le promesse quelle sicuramente no, ma neppure i propri ordini del giorno, questo insomma lo troviamo abbastanza singolare. Insomma, la vita delle telestreet in alcuni casi ancora è difficile, comunque il fenomeno continua, quindi io ringrazio Giancarlo Vitali, fondatore di Orfeo TV, ed Enea Discepoli, fondatore di Disco Volante.